Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. E ridono, cosa ridete? Cosa? Vi divertite a scrivere cosa dopo? Con voi bisogna dire bugie e fare i ruffiani. Ti do questa scusa, farò il re maggio al presepe vivente dell'asilo di mia figlia. Che fai il re maggio? Sì, non so quale dei tre. Cioè, la Lega sta sequestrando Gesù Cristo. Allora, quando loro vanno a Rozzano con Gesù... Che poi era uno global. E io trovo una vicinanza incredibile all'azione rivoluzionaria che fece Gesù Cristo, all'azione rivoluzionaria alla quale noi oggi stiamo chiamando i cittadini. Io farei tanti passi indietro pur di mantenerci nella pace. Guarda che tutti quelli del presepe erano arabi, a parte i re magi che invece erano curdi. Dai che è quasi Natale, amici, è quasi Natale. Non se ne può più di queste polemiche sul presepe. Non se ne può più. Corriere della Sera. Il prete cancella la messa di Natale a scuola. Ci sono fedi diverse da rispettare. Monza, Italia. Non se ne può più. La celebro io una messa. Non so se sono autorizzato, non credo. Vado dal mio parroco, Don Davide, che saluto sempre con grande affetto. Gli dico: Don Davide, dai, per favore, dammi un'autorizzazione speciale, una cosa, inventiamoci su qualcosa, la celebro io la messa. Basta! C'ho la sensazione che alla prossima notizia di questo genere straccerò il giornale, qualsiasi giornale mi troverò davanti. Vabbè, dai, sono le 6:33 minuti, questo è 24 mattino, oggi c'è un grande ritorno e quindi sono già su di giri, perché qui al Parlamento di 24 mattino, insieme a Lorenzo Nespoli in redazione, al nostro Peter Bescapè in regia, siamo prontissimi per lui che torna, il nostro imprenditore dallo sguardo sempre con il radar sul mondo, dal Medio Oriente, credo. Dall'Oriente Estremo, credo. Albertone Forchielli. Buongiorno, Alberto. Ciao, Alino, buongiorno, come stai? Ti avevo messo nel Medio Oriente. No, Oriente. Guai. No. Guai. Dove sei? A Hong Kong. Si sente un po' così. Se n'è entrato da Macao, si sente un po' col cellulare che va e viene, insomma, vediamo. No. Attacca bene la voce, sì, cellulare. Sì. Alza la voce, che così ti sentiamo bene. Allora, io tutte le volte che ci sentiamo, intanto apriamo il Parlamento, dai, così ufficialmente lo apriamo, ma tutte le volte che ci sentiamo dobbiamo iniziare a fare il punto della situazione sul mio disastrato Milan, perché insomma, oggi ho letto su Libero i soldi di Mr. B vanno al Manchester City. Ma quali soldi? Ma chi li ha visti questi? Dove sono questi soldi? Allora, Mr. B, Forchielli, Albertone. Ma Mr. B è schienato come una sogliola. Come una sogliola? No, il soldi che vanno al Manchester sono i soldi di un famoso fondo cinese che si chiama Shanghai Media, sì, di Li Ruigang, che è una persona molto famosa, che è anche quello che ha comprato i diritti del calcio cinese, ah, a investimenti nel campo dei media. Cioè non c'entra nulla. Sono soldi legittimi, sono soldi istituzionali. Poi lì c'è anche l'STT, la banca con la fianca, che era la stessa banca di Mr. Bean, ma non credo che STT abbia messo i soldi. Quelli sono i soldi di Shanghai Media. Quindi Mr. Bean non c'entra, non c'entra nulla con questi soldi? Non c'entra. No, cioè quello che accomuna è il fatto che entrambi hanno usato la stessa banca, ma non c'entra niente. Ma questo è il significato di quanto sia sceso il nostro calcio. Io 20 anni fa, qui in Asia, la gente... tutti con la maglia dell'Inter, la maglia del Milan, Juventus, niente. Adesso, Juventus visto, niente. Adesso quelle maglie lì ce le hanno i fattorini della pista. I fattorini? Il motorino. Sì, ormai. Che la bella Premier immagine. Eh sì, è la Premier League, è vero. Anch'io quando viaggio per il mondo, quando mi è capitato di andare in Estremo Oriente o qualsiasi partita di Premier League, tu vai a, non so, a Bali, a Bangkok, entri in un qualsiasi bar, ci sono tutte in diretta, eccetera. Invece le partite italiane, chi se ne... Oh, 20 anni fa non era così, eh? 20 anni fa era Italia, Uber Alles. E lì proprio un decadimento del nostro calcio. Si può vedere anche da questo il decadimento, dell'Italia o di una parte dell'Italia. Oh, salutano tutti, ci salutano e chiedono, caro Alberto, abbiamo inaugurato questa cosa, i selfie o le foto dei nostri ascoltatori, dei nostri ospiti delle 6:30 al Parlamento. Se tu, quando hai un attimo, magari durante il traffico, ci mandi una foto del tuo piedone, oppure una foto, quella che vuoi, la metti su Twitter e noi testimoniamo che sei in diretta con noi col selfie. Comunque, caro Alberto, allora Mr. B è schienato come una sogliola, questo l'abbiamo capito. Noi invece come siamo messi? No, sai che qui in Italia c'è un grande dibattito se aumenteremo dello 0,8, dello 0,9, dello 0,82, dello 0,83, dello 0,91. È interessante, adesso lo scopriremo tra poco. Sì, beh, Renzi e Padova sono come Otto e Bernelli, sono la stessa musica. Chi sono Otto e Bernelli? Otto e Bernelli non li conosci. Era un famosissimo duo musicale che andavano in giro col tamburo sulla schiena, boom boom, con la fisarmonica legata alla testa, boom boom, faceva una cosa. Ah, forse all'epoca di Renzo Arbor, sì, credo li scoprì. Sì, sì. Ah sì, li scoprì Renzo Arbor, infatti, l'altro domenica. Era una roba. Otto ti sembrano così, sì, come Otto e Bernelli? Cioè. Sì. Certo, di Renzi, tranquilli, l'Italia crescerà. Ma chi viaggio si fa? Credo di essere il cracco dell'economia. Non sarà un crack e basta. Un crack. Ma tieni presente. Sai chi è cracco? Sì. Beh, cracco sì, dai, cracco sì. Cioè, un decimale di crescita? E niente, non ce ne accorgia neanche. Sono piccole variazioni statistiche, possono anche essere rilevazioni statistiche. Cioè, 0,8-0,9 comunque non è crescita. Mm-hmm. Cioè, non è tecnicamente recessione, ma è nulla, cioè, non modifica assolutamente niente in un'economia. Certo. Per cui sono dibattiti assolutamente sterili. Il problema dibattiti è che il paese dovrebbe crescere al 2 e oltre per avere un minimo di possibilità di rientrare. Dopo non abbiamo quei cavalli lì. Non c'è mai cavalli. Vabbè, quell'altro giorno ho visto lì in televisione, c'era Pardo con una giacca che sembrava una accappatoio. Ma che sarto va? Cos'è che aveva? Aspetta, cos'è che aveva Padova? Una giacca? Ma aveva una giacca che sembrava un accappatoio. Io non so bene che sarto va. Secondo me va da Dolce Gabbana dove farsi vestire. Una giacca come un accappatoio. Non lo so. Non va bene, più. Ho capito. Messina senza acqua da 15 giorni, non so cosa. Interviene Fiorello. Idraulico. Insomma, la vedi quest'Italia un po' così. Beh, no, adesso però l'acqua è tornata a Messina, dai, adesso spero di sì. Probabilmente sì. È intervenuto Fiorello. No. Ci vogliono Fiorello. Credo che abbiano riparato l'acquedotto. Però sì. Ah, vabbè, insomma, quindi sì, questo dibattito sul sulla crescita 0,8-0,9 anche a me sembra un po', insomma, siamo lì ad accapigliarci per un decimale. Però c'è un altro dibattito che da due giorni, soprattutto sulla questione delle pensioni dei giovani. Tu che hai scritto un libro per invitare i giovani ad andare in giro per il mondo a cercare lavoro, no? È venuto fuori che paghiamo tanto di pensioni, attenzione perché guarda, ci seguono moltissimi pensionati che poi qualsiasi cosa dice si arrabbiano, e si è scoperto che i giovani, i trentenni, insomma, aspettare la pensione possono far prima morire forse, no? Allora, cosa diresti tu a un trentenne, Alberto? Ma sai, ho scritto un libro dicendo che devono andare via dall'Italia se posso, per cui sai, non è che posso aggiungere granché. Però facciamo un attimo un escurso. Il problema delle pensioni è vecchio come il cucco. È partito negli anni 70 alla grande con i governi Rumor, quando si inventarono tutto il meccanismo delle baby pensioni, del riscatto dei 7 anni. Che infatti paghiamo ancora. Quello fu un voto di scambio, capito? Avevo bisogno del voto, c'erano i comunisti che incalzavano e lì è cominciato a pompare. Io, tu pensa che nel 78 io mi sono laureato e capì nel 78 che non avrei mai avuto una pensione. Nel e 78. Io da allora, sono passato tra più di 37 anni, non ho mai praticamente versato un contributo, nel senso che facevo sempre lavori in cui non mi interessava niente. Ho versato anni di contributi inutilmente, però non ho mai pensato che io avrei goduto una pensione. Quindi parliamo di una roba... Quindi dici, quando eri trentenne tu, anche tu avevi questa sensazione? No, quando ne avevo 22. 22. Sono laureato a 22 anni, leggevo i libri, si capiva. Tra 40 anni io sto a versare, mi cucano tutti. Per cui io sempre cercavo... Non ho neanche riscattato la laurea. Sai che si riscattava la laurea? Sì. Non ho neanche riscattato. Con 2 lire si riscattavi, non so... Quindi trentenni, che dovete fare? Prendete in mano la vostra vita e andate in giro a lavorare. Sì, l'ho già scritto, abbiamo già parlato di questo tema. Ossia, chiaramente l'Italia è un futuro. Guarda, vengo da Macao, ho visto lì nel casinò, ci sono tanti ristoranti, ho visto i 2 ristoranti diversi, ho visto i ragazzi italiani. Guarda che Macao è un gran brutto posto dove vivere. Però capito, frequenta i casinò di Macao, l'altro era di Martina Franca, ma tornava in Italia senza parlare neanche. E lavoravano? Cioè lavoravano da Modica? Sì, certo. Era lì a lavorare. Sì, uno era direttore di un ristorante portoghese e l'altro era direttore di un ristorante italiano. E quelli in Italia, figurati. Ma non ci penso neanche, si buca nelle strade. E poi uno aveva famiglia, ma quell'altro viveva in 4 in un appartamento, viveva la cinese, ragazzi d'oro, ti staccano il cuore. No? Insomma, vabbè, il consiglio di Alberto Forchielli è: non state lì a pensare alla pensione, poi, andate in giro. 75 anni, ma chi ti arriva? Ma chi di quei ragazzi lì? Ma chi arriva a 75 anni? Ma che percentuale dei ragazzi arriveranno a lavorare a 75 anni in un posto regolare con i contributi? Ma sono tutti cococò, capito? Ossia, è già sbagliato quel concetto lì. Il problema, dicono che è una partita di giro tra i vecchi, gli anziani che prendono molte pensioni, sì, e i giovani che praticamente, sai, gli anziani prendono le pensioni, i giovani, sui lavoratori paghi dei contributi incredibili, sì, e alla fine ammassi l'occupazione. A proposito di occupazione, 100 lire in busta paga, devi pagarne 300, per cui le aziende vanno via. A proposito di occupazione, senti qui. Per i giovani è una partita di giro per il culo. Allora, questa si è capita bene. Senti però qui Poletti qualche giorno fa, che ha detto anche sul voto di laurea, no? Sul voto, meglio laurearsi prima piuttosto che dopo e con un voto più alto. Che prendere 110 lodi a 28 anni non serve un fico, è meglio prendere 97 a 21, che dimostri che in 3 anni hai bruciato tutto e volevi arrivare. Se invece tu giri tondo per prendere mezzo voto in più, butti via del tempo che vale molto ma molto ma molto di più del mezzo voto in più che prendi. Che ne pensi di questa Alberto? Cioè laurearsi prima con un voto minore piuttosto che stare lì a cercarla il 100 110, che dici? No, bisogna laurearsi prestissimo col 110. Ho capito quello. Arriva un curriculum Appena mi arriva un curriculum, la prima cosa che guardo è il voto di laurea. Seconda cosa che guardo è addirittura il voto di maturità. Poi naturalmente guardo l'età, perché se ho laureato a 26-27 anni non mi interessa, che vedi tre criteri. Ho capito, cioè tu cerchi quello che si laurea a 22 anni a 110 e grazie al secchio, esatto. Dico. Quelli prendono, sarà il 10% che trova lavoro. Che trova un buon lavoro. Però ecco, tra uno che si è laureato a 22 anni con 90 e uno che si è laureato a 28 con 110, chi scegli? Così è stato messo. Nessuno. Perché ce ne sono tanti altri di meglio che ormai, capisci? Cioè, ormai per infilare il buco bisogna essere nel top 10-20%. Nessuno dei due. Capito. Alberto sceglie, dice a uno e all'altro: andate a fare un altro prendo lavoro. Prendo un diplomato con 60-60esimi. È bella questa. Allora facciamo così: andiamo alle informazioni sul traffico. Ma fatti intanto una foto, fai un selfie, fai quello che vuoi e mettilo su Twitter per dimostrare che sei con noi in diretta. Tra poco parliamo anche del Vaticano. Sai che in Vaticano ci sono un po' di problemi? Tra un attimo, Alberto, voglio sentire la tua. Arrivo, sì, non sì, tra un attimo. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta. Alessandro, ascoltare la tua voce al mattino mi fa iniziare la giornata con un sorriso. Mua! Ma Milan, mi sa dire chi è che mantiene tutti questi giovani disoccupati? Questi trentenni senza lavoro e anche quarantenni? O licenziati a 50, eccetera? Chi è che li mantiene? Milan, sono Fiorentino. Ti ringrazio stamane che hai rimandato il messaggio. Grazie. Però... non c'hai tanta simpatia per noi toscani, eppure siamo abbastanza simpatici. Poi in Toscana si mangia bene, si beve meglio e si tromba che un te lo dio, hai capito? Milan, ma gli islamici quando festeggiano la loro festa non lo fanno per rispetto di noi cristiani? Mi chiedo questo. Ciao Milan. Dai Milan, fai gli auguri al mio fratellone che sta per sposarsi, se no vi mando tutto il giorno WhatsApp cantando Tu scendi dalle stelle. Non sarà peggio di La Russa. Vabbè, auguri al tuo fratellone, non sappiamo come si chiami, ma insomma, cara ascoltatrice, auguri al tuo fratellone. Allora siamo con Albertone Forchielli da Hong Kong. Allora Alberto, ti faccio sentire, hai visto Francesca Sciauchi, questa PR che ha scalato tutti i vertici del Vaticano. Sì. Ti faccio sentire un audio. Immacolata Sciauchi. Ti faccio sentire un audio. Senti cosa dice. Ma tu ti sei trombata balda. Guarda, se io avessi voluto gradire mio marito, certamente non l'avrei fatto con un prete a cui non piacciono le donne. Quindi assolutamente no. Gli hanno chiesto le Iene. Ti sei trombata balda. Vabbè, insomma, l'hai vista questa Sciauchi. Sì, è come quel gran pezzo dell'Ubalda, tutta nuda, tutta calda, e propone la cugina Silvana tutta tana. E non ha proposto la cugina Silvana al prete? Sì, pare dalle intercettazioni. Ma quanto vuoi scommettere che la prossima volta che vediamo la sei qui è su Playboy? Su Playboy, e anche no. A Macà, sì, finiscono tutte lì. No, ma come se per voi? No, dai. Oh, è per fortuna che fa di nome Immacolata. Immagina se si fosse chiamato Crudelia. Sai che il Papa ha detto meno male che non c'è Lucrezia Borgia, no, lì in Vaticano. Sì, esatto. Però, insomma, un po' un gran casino, questa storia del Vaticano, che devi fare. Beh, certo, sì, purtroppo altre pagine dei giornali sul mondo, quella ha disfatto anni, due o tre anni di goodwill di Papa Francesco, perché ha dimostrato che non riesce a dominare la bestia. Non riesce, Se ne parla anche lì, te l'ho chiesto anche l'altra volta questa vicenda. Ma come viene raccontata? Cioè, cos'è che interessa più, lo scandalo, gli scandali presunti sessuali piuttosto che quelli finanziari? Cioè, cos'è che si racconta da quelle parti del Vaticano? Ma devo dire la verità, io non li leggo. Se vedo le prime pagine del Times, le prime pagine del Post, però non li leggo. Però racconto le cose come stanno. C'è poco da andare a raccontare. Al di là del fatto finanziario, una roba. rubano documenti, cassette aperte, ma questa qui come è entrata lì, capito, 30 anni, ma, cioè, ma attraverso che meccanismi, capito, come decidono, che criteri usano, capito, cioè, come se non ci fossero delle donne intelligenti in Italia, ma vanno a prendere proprio quella lì, vabbè. Quella lì è buona a fare il nuovo testimone del DASH. Nonostante quelle macchie immacolate, è roba da dare. ecco. Vabbè, insomma, si scherza anche un po', visto che sono momenti difficili. Sono momenti difficili, figurati qua, c'è la lotta al terrorismo, la Russia con Putin che adesso accusa la Turchia di dire fanno affari con l'ISIS e comprano il petrolio dell'ISIS. Adesso hai sentito che dall'altra parte del mondo, rispetto a dove sei tu, negli Stati Uniti, in California, c'è stata questa sparatoria ieri con diversi morti e gli attentatori che sono stati attentatori che sono stati uccisi. Adesso c'è la polemica perché poco fa il padre di uno di questi attentatori ha detto sì, mio figlio era musulmano, figurarsi, adesso partono, insomma, le accuse. Per questa lotta al terrorismo come la vedi tu? Anche la vicenda Putin, ISIS, noi siamo un po' messi ai margini, mi pare, noi italiani, o no, caro Alberto? Putin e Obama al tavolo anticalifato sono loro che gestirono le file. L'Europa con culo modello tira avversario non invitata, per forza. Il forza militare europeo si esaurisce con delle fionde, qualche cerbottano. Ci abbiamo le fionde. Fionde e cerbottano. Sì, dovrebbe essere roba nostra. Poi non credo neanche nell'importanza delle armi, però l'ISIS si blocca strozzandola, bloccando le vie finanziarie. Quindi ovviamente quella storia del petrolio che andava in Turchia la sapevo tutti. Ho capito, ma tutti sanno che la Turchia fa di 3.000 camion, si vede sui satelliti, ma si sapeva da mesi che andava a finire lì. Cosa bisognerebbe fare? Ho capito, ma cosa bisognerebbe fare? Dire alla Turchia non facciamo più affari con noi. Gli abbiamo appena dato 3 miliardi noi dell'Unione Europea, gli daremo 3 miliardi per gestire i migranti alla Turchia. Non so, ci tiene sotto bastone, capito? Però capito, se non hai le palle, c'è un momento in cui, capito, metti da parte l'interesse e poi dopo cali l'asso, capito? C'è un momento in cui devi dimostrare carattere. Devi dimostrare. Quindi bisogna fare. Io sono molto filo russo in questo. Sono molto infatti, ma tu lo scrivi anche su Facebook. Ah, guarda. Io sei filo russo. Sì, guarda, hanno avuto 20 milioni di morti nella guerra mondiale. Non hanno fatto niente di male nessuno. Mussolini ha inviato 8 divisioni. Mio padre è riuscito a venire fuori dalla Russia perché una famiglia russa gli ha regalato un paio di stivali di feltro. E mio padre mi ha sempre detto, il popolo russo, Alberto, ricorda, è un popolo fantastico. Io dei turchi ricordo solo mamma di turchi. Io sto con Putin tutta la vita. Stai con Putin. E con i russi tutta la vita. Beh, vabbè, la posizione è chiara. L'hai mandato la foto su Twitter? Io mor. Sì, sono in mutande, quindi ho fatto proprio la sgambata, ho fatto la scacciata. Come in mutande. Adesso devo subito andare a vederla e a ritwittarla. Sì. Come in mutande? Sì. Cioè, io quando ti parlo sto in mutande, la mia tenuta d'ufficio. Fai affari così, in mutande. Sì. Vabbè, adesso sì, subito. Sono molto connesso, in casa sto in mutande. Devo subito. Lavoro, poi così non mi devo vestire. A volte non mi faccio la barba, poi dopo non devo fare il da qui all'ufficio. Da quello tempo risparmio. Mi sveglio durante la notte e lavoro. Ma l'hai già messa su Twitter? Adesso vado subito a ritwittarla. Allora, grazie Albertone Forchielli per essere stato con noi. Buon Natale, canta Jingle Bell, fai il presepe, fai l'albero, dovunque tu sia, quando sarà Natale. E intanto un abbraccio e a presto. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci cari ascoltatori, le 7:19 minuti, pronti a leggere i giornali e pronti più tardi alle 8:15 con Oscar Giannino a parlare di che cosa? Dei temi di attualità, ovviamente, di quello che volete, ma ci concentreremo anche su questa decisione, questo emendamento per rendere più facili l'utilizzo della carta elettronica, più facile l'uso del bancomat, delle carte di credito, l'emendamento alla legge di stabilità che sta facendo molto discutere, soprattutto i commercianti molto arrabbiati. Ma come si potrà pagare il caffè con la carta di credito? Sarà un disastro. Si potrà comprare il giornale con la carta di credito? Insomma, verrà abbassato, tolto il limite dei 30 euro sotto il quale un commerciante ora può dire non accetto le carte di credito, e invece non sarà più così se passerà questo emendamento, ma ne discuteremo più avanti. Ora i giornali. In questo giovedì 3 dicembre, intanto i titoli, Il Sole 24 Ore apre per brevetti e marchi, bonus più semplice nella legge di stabilità, gli emendamenti per facilitare l'accesso al regime del patent box, con ieri l'iniziativa anche qui nella sede del Sole 24 Ore a Milano. Poi quello che è successo negli Stati Uniti, la sparatoria a San Bernardino in California, strage nel centro per i disabili, è il titolo del Corriere della Sera, uccise 14 persone, sono stati tre killer. Il Messaggero, la strage nel centro disabili, terrore in California, tre uomini sparano in un istituto di assistenza, 14 morti e 14 feriti. Per Repubblica, l'attualità internazionale, la lotta al terrore, Putin attacca Erdogan e la NATO, affari Turchia-ISIS, ecco le prove. Anche La Stampa, Mosca, Erdogan in affari con l'ISIS. Per Il Giornale, Europa nel caos, l'ISIS ride. Libero invece, altro furto ai pensionati, ciò che anticipava ieri Il Sole 24 Ore. Nel 2016 i pochi che hanno ottenuto la rivalutazione dovranno restituire parte dei soldi ricevuti. Per Il Fatto Quotidiano, banche fallite, bomba da 2 miliardi, 130.000 risparmiatori sul lastrico. Avvenire invece, NATO-Russia, bombe, parole e provocazioni, questo il titolo di apertura. Da cosa voglio partire però? Soldi, sapete che ci piace concentrare e vedere dove vanno i soldi, soldi anche nostri, soldi vostri. Per esempio, questa ricerca di Open Polis che viene raccontata dalla Stampa a pagina 9, il finanziamento ai partiti risorti in Parlamento. 160.000 euro al giorno è l'annosa questione, l'annoso il dibattito del finanziamento ai partiti, in questo caso il finanziamento ai gruppi parlamentari. Ogni giorno, racconta Giuseppe Salvaggiulo sulla Stampa pagina 9, ogni giorno, domeniche comprese, i gruppi parlamentari percepiscono 160.000 euro. In un mese sono 4,8 milioni, in un anno fanno 53,3 milioni di euro, il doppio del vecchio rimborso elettorale ai partiti che scomparirà nel 2017. Questi sono però i soldi ai gruppi parlamentari, non i partiti. Dunque ai partiti rappresentati in gruppi parlamentari. Per la prima volta i rendiconti illuminano questo canale di finanziamento pubblico della politica, che non solo non viene prosciugato, ma si ingrossa, aggiungendosi al meccanismo del 2 per 1000, vanifica la tanto strombazzata autoriforma. È Open Polis che ha analizzato i dati di 28 di rendiconti dei 12 gruppi parlamentari principali, ed eccoli allora che si è scoperta questa cifra: 53,3 milioni di euro contributi all'anno ai gruppi parlamentari. Evviva il finanziamento alla politica! Ma ci sono, a fianco a queste notizie un po' così, delle notizie positive. Ah, spesso mi dicono: dacci delle belle notizie. E questa è una che vi sto per dare. D'altronde, come dico sempre, non è che mi posso inventare notizie sui giornali. E quelle sono. Se sono soprattutto negative, ve le cuccate. Però, oggi sul Messaggero, pagina 15, anche il Corriere dà la notizia in minor risalto, c'è una notizia positiva. La Camera ha deciso che dal 2016, dal gennaio 2016, non saranno più rimborsati i viaggi agli ex deputati che si spostano per l'Italia. Gli ex deputati, non gli attuali deputati. Camera, niente più viaggi gratis per gli ex deputati. Simona Ciaramitaro lo racconta a pagina 15 del Messaggero. L'ufficio di presidenza della Camera abolisce i rimborsi per le spese di viaggio degli ex deputati. Il risparmio è poca cosa, per carità, nel bilancio di uno Stato, 900.000 euro l'anno, davvero granellini di sabbia. Però Peter Bescapè dice, a me 900.000 euro farebbero abbastanza comodo. E va bene. Comunque, secondo le norme fino a ora vigenti, la Camera rimborsava le spese sostenute dai parlamentari per i loro spostamenti entro i confini dell'Italia, in treno, in aereo, in nave, in autostrada, ex parlamentari, e il plafond variava per ogni deputato a seconda del numero di legislature, cifre che arrivavano fino a 3.200 euro l'anno, 3.200 euro l'anno di rimborsi di viaggi per gli ex deputati. Tutto questo dal gennaio 2016 sarà cancellato. Lo voglio sperare. Saremo vigili, così come i giornali, a raccontare se davvero sarà così. A proposito di cancellare, io devo fare un appello: non se ne può più. L'ho detto già alle 6.30, non ne posso più di leggere notizie come quella che il Corriere racconta, che proviene da Monza, a pagina 25. In questo caso è il prete che cancella la messa di Natale, dicendo nella scuola ci sono fedi diverse. Tra l'altro in un istituto cattolico, non lo so, poi bisogna sempre verificare al 100% queste notizie. Comunque Federico Berni lo racconta a pagina 25, è in un istituto dove c'è la vistosa statua della Madonna, dell'ente cattolico di formazione professionale, non si celebrerà la messa di Natale perché il prete dice non bisogna discriminare gli studenti di altre fedi. Non se ne può più, e queste notizie, e il presepe non si può fare, e l'albero di Natale forse sì, e i canti di Natale forse no. Non se ne può più di leggere, ci vorrebbe una moratoria su queste notizie, però succede. Sapete che c'è un'altra notizia sul mondo della scuola che mi interessa molto di più e vorrei sottoporre, è quella che Salvo Intravaia racconta su Repubblica a pagina 23. È uscita la classifica fatta dalla Fondazione Agnelli dei migliori licei d'Italia. Sì, avete udito bene, non è uno scandalo dire i migliori, quelli che sono meglio e quelli che sono peggio. Mica la scuola pubblica deve essere tutta uguale, queste sono fregnacce. Ci sono scuole migliori e scuole peggiori, e il migliore viene stabilito in base a parametri e in base a come i licei preparano agli studi universitari. E allora, ecco i migliori licei d'Italia. A Milano vince una paritaria. Pagina 23 di Repubblica, ci sono tutte le classifiche di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo. Diciamo che racconta Repubblica, Mamiani e Tasso nella capitale, quindi a Roma, sono i licei che si confermano i migliori licei classici da frequentare per chi vuole poi proseguire gli studi all'università. Mentre quest'anno a Milano e provincia sono i licei paritari a sopravanzare Lettore Maiorana di Desio. Il miglior liceo classico delle grandi città nel 2014 è scalzato infatti dal Sacro Cuore di Milano. È l'edizione di Eduscopio, giunta alla seconda edizione, cioè il portale lanciato dalla Fondazione Agnelli, che fa la classifica dei licei migliori in Italia. Lo trovate su Repubblica a pagina 23. Oh, che bella la burocrazia italiana! Che bella, so che tutti hanno a che fare con la burocrazia italiana, tutti hanno a che fare con delle lettere, delle richieste che arrivano. Per esempio arriva anche una richiesta di un ticket da pagare, e può succedere, 37 euro da pagare dall'ASL di Modena. Ci siamo sbagliati, lei ci deve 37 di euro di ticket per una visita che ha fatto, l'ha fatta 17 anni fa. Succede, come racconta Libero con Alessia Pedrielli a pagina 19. Si fa visitare nel 98, gli chiedono di pagare 37 euro di ticket dopo 17 anni. Ad inviare la richiesta con tanto di raccomandata, via posta, quindi una cosa celere, veloce, a un cittadino è stata l'azienda sanitaria di Modena che in vena di controlli ha scovato tra le pratiche inevase quella di una visita del lontano 1998. Ovviamente questa persona che ha raccontato tutta la Gazzetta di Modena dice: ho letto e riletto la lettera, si citava un ticket il 31 dicembre 98, non ricordo neanche che visita ho fatto, ho chiamato, mi hanno detto che basta una mail da mandare per dire che non è dovuto nulla. Certo, però il cittadino si deve prendere la briga di mandare una mail, e se no si sa come succede in questi controlli a strascico, qualcuno paga e sono 37 euro che entrano all'ASL, in questo caso di Modena. Ma a proposito di Libero, e rimango su Libero perché Filippo Facci oggi vince sicuramente il premio Mani sul Volante per l'articolo che ci fa pensare della giornata. E mi raccomando, appoggiate oggetti contundenti, caffè bollenti, cappucci, brioche con la crema che poi ve la sparate in faccia dalla rabbia. Se stringete la furbata della regione Campania, raccontata e anticipata dal Corriere del Mezzogiorno, ma oggi Filippo Facci dedica mezza pagina a questo. La regione Campania si compra il like su Facebook. Sapete che ci sono queste agenzie di comunicazione assolutamente legittime che ti organizzano una strategia anche sui social per essere più sexy, per essere più appealing, per essere più likeati, per essere più seguiti. E allora la regione Campania ha dato 80.000 euro a un'agenzia di comunicazione per migliorare i like su Facebook, che infatti sono subito migliorati, quindi questa agenzia ha fatto il suo lavoro. Da 4.000 like si è saliti subito a 50.000 like, tutto usando, scrive Libero, riprendendo il Corriere del Mezzogiorno, i fondi europei. E vedete che l'Europa serve. E che diamine, adesso c'ha i like, la regione Campania. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da San Martino di Castrozza, Passorolle, spettacolo e avventura tra le Dolomiti. Alessandro Milan, un leone nella fossa dell'informazione. Grande la fossa dei leoni, che bei tempi. Allora, cari ascoltatori, le 7:35 minuti. Beh, dobbiamo parlare intanto di questa vicenda di cronaca che ha degli sviluppi ancora in corso, nel senso che ieri sera, nella sera italiana, tarda serata, c'è stata questa sparatoria a San Bernardino in California, in un centro per disabili, dove due persone, ecco, questa è la notizia di poco fa, la polizia ha detto che sono due le persone che sono entrate sparando all'impazzata, uccidendo, pare, 14 persone, ma ci sono anche feriti gravi. I due killer si chiamavano, perché poi sono stati inseguiti dalla polizia e uccisi, Syed Rizwan e Tashfin Malik. La polemica è già scoppiata perché uno dei due, racconta il padre, era un musulmano devoto, molto religioso. In realtà non si conoscono le motivazioni del gesto, però è chiaro che, come potete immaginare, già le polemiche ci sono. California, assalto al centro disabili, uccise 14 persone, caccia i killer. Questo è il titolo del Corriere della Sera, ma come potete immaginare, i giornali in questo sono già vecchi nel momento in cui li comprate oggi, perché le notizie raccontano poi di killer che sono stati inseguiti e uccisi dalla polizia dopo una sparatoria. In questa struttura medica di San Bernardino si teneva una festa, era la festa del Natale. E racconta il Corriere: dopo la scuola elementare del Connecticut, il tempio Sikh del Wisconsin, il cinema e la clinica degli aborti in Colorado, la chiesa evangelica nera di Charleston in South Carolina, stavolta tocca la California. Un centro di servizi sociali per disabili a San Bernardino, un'ora di auto da Los Angeles, è il bersaglio di un altro sanguinoso attacco armato negli Stati Uniti. Questa la cronaca. Certo, poi Guido Olimpio a pagina 3 mette il tanto annoso dibattito sulla questione dello sviluppo e sulla diffusione delle armi negli Stati Uniti. 1029, questo è il numero da cui parte Guido Olimpio, il numero di sparatorie gravi negli Stati Uniti dal dicembre 2012. 1029. E tutte le volte polemiche, sdegno, lacrime, promesse di cambiamento, montagne di parole rimaste tali. Ancora, è il 16° appello di Obama, presidente americano, che dice: adesso basta. sedicesimo appello, che però rimane per il momento parole al vento, anche perché la lobby delle armi, sapete, negli Stati Uniti è molto molto potente. Comunque vi invito a seguire Radio 24 tutta la giornata, perché a ogni giornale radio daremo sviluppi di questa notizia, che certamente con il fuso orario sui giornali non è ben spiegata, ma potremo spiegarla durante il corso della giornata. Mentre invece sul fronte della lotta al terrorismo pesano molto le parole dei russi. Pesano le parole dei russi nei confronti della Turchia, perché tutti dicono la Turchia aiuta in qualche modo l'ISIS, la Turchia fa affari con l'ISIS, ci sono inchieste giornalistiche da tempo, ma quando a dirlo sono le autorità russe capite che tutto prende una piega ben diversa. Allora Putin ha accusato il presidente turco Erdogan con un dossier di foto e filmati, la sua famiglia compra petrolio dalla Siria. Marco Ansaldo su Repubblica pagina 3 racconta che a un certo punto il ministro russo alla difesa Anatoly Antonov esce davanti ai giornalisti e dice: in Occidente nessuno si pone domande sul fatto che il figlio del presidente turco sia capo della più grande compagnia energetica o che il suo genero sia stato nominato ministro dell'energia. Che meravigliosa famiglia d'affari! Il cinismo della leadership turca non conosce limiti. Queste le parole, come dire, per nulla sfumate del ministro alla difesa russo. E allora è interessante, sempre Guido Limpio sul Corriere, l'inchiesta pagina 6 dal titolo «Chi compra dal califfo il petrolio?» perché scrive Olimpio: a nessuno fa schifo il petrolio del califfo, dunque finisce in Turchia, in Kurdistan, a Damasco, molto più lontano, perché a volte è mescolato a quello legittimo. Questo spiega come porti allo Stato Islamico 500 milioni di dollari l'anno, una fetta di quel miliardo di dollari che rappresenta il budget del sedicente Stato Islamico. Le accuse del Cremlino sulle tre rotte usate dall'ISIS per far arrivare il greggio in Turchia sottolineano con clamore e foto aspetti già emersi da inchieste giornalistiche, ma ora, ripeto, è il Cremlino in prima persona che accusa la Turchia e dunque su questo fronte è chiaro che le tensioni permangono molto molto intense. Tra l'altro su questo tema della guerra al terrorismo vi segnalo una storia di cronaca che viene dalla provincia di Padova ed è raccontata dal Fatto Quotidiano, da Davide Milosa a pagina 6. Riguarda una ragazza, si chiama Mariem Rehai, ha 19 anni, è di origine marocchine e c'è un giallo perché da Arzegrande, 2000 anime nella zona di Piove di Sacco, provincia di Padova, è scomparsa questa ragazza. E il sospetto, il timore che questa ragazza, che ha detto banalmente ai genitori vado al mare con le amiche, arriva a Bologna e da qui scompare su un volo della Turkish Airlines e va in Turchia, il timore che sia andata in Siria. Arruolata da chi? A 5 mesi dalla scomparsa, dalla partenza di questa studentessa ci sono indagini, racconta il Fatto Quotidiano, che si sono concentrate su di 2 presunti reclutatori. Nel mirino dell'antiterrorismo ci sono un cittadino algerino e uno pakistano, soprattutto è il cittadino algerino su cui si puntano le ricerche. Secondo gli investigatori sarebbe ancora nella zona del nord-est del paese a reclutare potenziali sostenitori dell'ISIS. E dunque questa è una storia di cronaca certamente inquietante che trovate sul Fatto Quotidiano. Invece continua il dibattito e vi segnalo le 2 pagine sulla Stampa sui giovani e la pensione. Se volete riannoderemo il filo di questo discorso anche dalle 8 con voi, telefonandoci all'800 24 0024 e con Oscar Giannino, perché i giovani che non pensano alla pensione, scrive la Stampa in questa inchiesta Stefano Rizzato, la pensione il trentenne ci rinuncia, si arrangia con la condivisione, visto che ha scoperto che in futuro dovrà andare a lavorare avanti fino a quando avrà 75 anni e probabilmente avrà una pensione del 25% più bassa rispetto a quella dei suoi genitori, allora i giovani si inventano nuove forme di risparmio. Quali sono le ancore di salvezza, secondo la Stampa, a cui puntano molti giovani? Sono Airbnb, cioè il portale attraverso il quale chi ha una casa o ha una stanza può metterla diciamo così, in affitto temporaneo per un giorno, due giorni, tre giorni, il tempo necessario ad accumulare qualche soldo, oppure chi si converte in Uber, cioè fa questo servizio di trasporto, oppure BlaBlaCar, no? È un'altra app che si è molto diffusa, per cui si può condividere l'uso della propria auto e le spese per la mobilità, cioè i giovani, i trentenni, quelli che non hanno un lavoro, scrive La Stampa, si arrangiano in qualche modo così. Ma dove è finito il nostro Mauro Meazza? Mi stiamo provando a chiamare, ma non... Boh, vabbè. No, perché ci sono molte persone che sono arrivate in tangenziale, quindi hanno calibrato, come sempre, l'arrivo in tangenziale, chi l'uscita da casa, chi con il passaggio di Mauro Meazza, ma c'è qualche problema con Mauro Meazza. Non so, vogliamo provare a chiamarlo? Dove è finito, Mauro? Dove è finito? Mauro? Pronto? Boh, suona. Mauro? Non si sa. Buongiorno e benvenuti nel servizio di risposta automatica di Mauro Meazza. Se siete lettori del Sole 24 Ore, premete 1 e cominciate a leggere puntigliosamente le pagine iniziali del quotidiano. Puntigliosamente. Se cercate il vocabolario del Sole per capire le parole chiave dell'economia, della finanza e del diritto, premete martedì e mercoledì in edicola. Se è martedì, leggete religiosamente le pagine di norme e tributi e gli articoli dedicati al condominio. Se è sabato, leggete Plus, il settimanale del risparmio. Se siete Alessandro Milano, Peter Bescaperi, agganciate e sarete contattati dal mio avvocato. Ma no. Se è lunedì, consultate avidamente l'esperto risponde. Se è giovedì, sappiate che sul Sole 24 Ore trovate anche le pagine di Casa 24. Se per caso volete ancora parlare di Napoli-Inter, mandare in onda radiocronache disturbanti o brani musicali partenopei, premete Traffico! Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Ma la libidine è qui, amore! La radio, il Milan e sei in pole position! See you later! No, vabbè, mi è impazzito Mauro Meazza. È ufficiale, Mauro Meazza mi è impazzito. Fate qualcosa. Ci sono messaggi, grande Meazza, Meazza unico, un genio. No, numero uno assoluto, meraviglia Meazza, ci scrive Roberto, ci mandano i cuori, ci mandano... Vabbè, le risate, grazie, ma se potete chiamare un attimo il 118 e vi do l'indirizzo di Mauro Meazza, portate anche delle persone vestite di bianco, gentilmente, che possono accompagnarlo in un luogo dove si prenderanno cura di lui. Un grande abbraccio. È impazzito. Oh, tra l'altro, Mauro Meazza, i Chapter 11 questa sera suonano nella sede del Sole 24 Ore. Ditemi l'orario, dai, recuperiamo l'orario. Comunque, alle 21 suona Mauro Meazza, i Chapter 11, non solo lui. Alle 21 qui la sede del Sole 24 Ore, grande concerto di Mauro Meazza. Se prima non lo trovano in una casa di cura perché è portato così. E tra l'altro, diciamolo, e venite numerosi perché tutti i soldi che verranno raccolti, come sempre tutte le iniziative di Chapter 11, verranno dati in beneficenza, quindi questo per una buona causa. Speriamo davvero che arrivi a sera e non sia portato altrove. Alle 21 qui è. Allora, parliamo di politica. Sapete che c'è questo dibattito sulle primarie. Le primarie, finalmente Renzi ha visto Pisapia, ha visto anche la vice di Pisapia, vale a dire Balzani, che vuole fare le primarie. Il dibattito è: Renzi vorrebbe candidare Sala, amministratore delegato di Expo, mentre Pisapia vorrebbe una continuità, pur non candidandosi lui, perché l'ha già detto, vorrebbe la candidatura di Roberta Balzani. Allora, si è trovata, credo, questo tipo di accordo, come raccontano i retroscena dei giornali, e cioè che Renzi dice siano primarie libere, corrano tutti coloro che vogliono, quindi poi vedremo. L'importante, come racconta Repubblica, mai più casi Liguria, cioè chi dovesse perdere le primarie poi dovrà sostenere il vincitore. Goffredo De Marchis racconta nel retroscena pagina 14 Repubblica proprio questo, nel faccia a faccia con Pisapia e anche con la vice di Pisapia, Francesca Balzani. A un certo punto Renzi ha detto: beh, ma se si perde, si sostiene lealmente il vincitore? giusto? Questo tra l'altro Pisapia ha detto a Renzi, questo vale anche per Sala? Cioè vale per tutti? Cioè se anche Sala perde le primarie sostiene lealmente il vincitore delle primarie? Allora se si parte da questo punto pare che ci sia questo accordo. Sala in tutto questo, nell'attesa, racconta il Corriere della Sera, ha già le basi del programma, deve ancora decidere tutti i dettagli, ma ha già lo slogan che sembrerebbe questo per Milano: non la Milano da bere per pochi, ma la Milano da vivere per tutti. Vabbè, sì, un po' più di sintesi e ci siamo, insomma, questo è il mio modesto parere, uno slogan un po' più sintetico, però questa è l'idea su cui si muoverebbe Giuseppe Sala, che avrebbe già un'idea della internazionalizzazione di Milano, la battaglia per riqualificare le periferie, la lotta sull'ambiente, la città metropolitana, la base, scrive Elisabetta Soglio sul Corriere, per Sala la necessità di reperire fondi per fare investimenti e garantire sviluppo. Serve un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare, un ripensamento sulle partecipate. E per quel che riguarda i soldi, se si attiva un primo stock di risorse finanziarie, poi si possono aggregare banche, privati, cassa, depositi e prestiti per trovare i fondi. Insomma, le primarie del centro-sinistra, soprattutto lo sguardo su Milano. A proposito di Italia, però, vi segnalo Dario Di Vico, oggi il fondo in prima pagina del Corriere della Sera. Quei no a chi vuole investire, scrive Di Vico, perché i soliti paradossi italiani per cui abbiamo fatto una legge di stabilità che assomiglia a un vestito di Arlecchino, siamo a discutere sull'ennesima querela di decimali di incremento del PIL. In realtà dovremmo fare una prima drastica semplificazione delle bardature burocratiche che impediscono di fare impresa e poi dovremmo avere un'apertura senza se e senza ma agli investimenti stranieri. E qui Dario Di Vico racconta la storia dell'IKEA in provincia di Milano, il caso più recente in Lombardia. La Lombardia si accinge a dire no all'IKEA con una secca presa di posizione della maggioranza. Si dice no al progetto per i comuni di Cerro Maggiore e Rescaldina per realizzare un centro commerciale nell'alto milanese. Una vicenda che si trascina da 5 anni. Gli svedesi vogliono rafforzare la presenza commerciale sulla direttrice Milano-Varese e invece la regione Lombardia dice di no. Nessuno vietava e vieta agli enti locali lombardi di esigere volumi compatibili col paesaggio urbano esistente, scrive Di Vico. Nessuno vieta di esigere spazi adeguati per i commercianti locali, la valorizzazione del tessuto artigianale. Ma non è stato fatto. Perché un ragionamento di totale buonsenso come questo non trova campo? Perché da una parte si sostiene che dobbiamo attrarre investimenti esteri e dall'altra si lavora per metterli in fuga? L'Italia di oggi vive dentro questa schizofrenia. Questo è l'editoriale di Dario Di Vico, che racconta la storia dell'IKEA per raccontare un po' la storia dell'Italia. A proposito d'Italia, ragazzi, questa non è una bella notizia per lo sport in vista delle Olimpiadi, per l'atletica italiana azzerata per doping, come raccontano tutti i giornali, praticamente nelle pagine neanche di sport, ma nelle pagine di cronaca, pagina 22-23 del Corriere della Sera, per esempio, è stata chiesta la squalifica per 2 anni di 26 atleti azzurri, alcuni del passato, alcuni in vista delle Olimpiadi di Rio, perché avrebbero evaso i controlli dell'antidoping. Sapete che i atleti, quelli olimpionici soprattutto, devono sempre dire dove sono per i controlli a sorpresa. E pare invece che di fronte alle mail di dire «Oh, diteci dove siete» da parte della procura antidoping, non rispondessero, non le fregasse molto, non comunicassero gli indirizzi. Risultato, ora arriva la richiesta di squalifica. Hanno eluso i controlli a sorpresa antidoping e dunque Atletica Italiana rischia l'azzeramento in vista delle Olimpiadi. Vabbè, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, una mezza pagina, la faccio vedere anche in diretta su Periscope, sul Corriere della Sera, Fabrizio Roncone, dedicata al libro di Paolo Cirino Pomicino. Il libro di Paolo Cirino Pomicino, vedo già le persone che frenano adesso, frenano di colpo. Dov'è una libreria? È uscito il libro di Paolo Cirino Pomicino. Tutti in coda a comprarlo. È uscito. Tutti in fila in libreria. Ma chi se ne frega!